Strip Trip, un viaggio nel mondo dei fumetti con Alessandro Chiarella. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo ancora qua. Strip Trip, nona puntata, dopo una lunghissima pausa di riflessione, siamo tornati e questa sera, ragazzi miei, abbiamo la musica dal vivo, i tenti forti qua a fianco a me che strimpellano uno a fianco all'altro e mi guardano con occhi lacunosi. Li sentite? Spettacolo. Non è da tutti andare in trasmissione con la musica live sottofondo. Sono veramente emozionato, un ritorno alla ribalta di quelli spettacolari. Come dicevo, nona puntata, siamo ancora qui, siamo di nuovo qui e staremo sempre qui finché la salute ce lo permette e la pioggia soprattutto. E bene, questa sera un argomento molto molto importante, abbiamo tante novità, io mi sono ricaricato di un sacco di argomenti, parleremo di un sacco di cose nelle prossime puntate, ma oggi partiamo con una puntatona sulle donne nel fumetto. Eh già, la figura delle donne nel fumetto. Se seguite un po' la pagina Facebook saprete che ho chiesto un po' in giro di darmi degli spunti e da qualcuno mi è stato chiesto qualcosa, da qualcun altro, Chiara mi ha chiesto di parlare della figura delle donne nel fumetto e allora lo spunto mi è sembrato molto molto interessante e stiamo qua. C'era anche il Buck, non so come si chiami davvero, ma così si è registrato su Facebook, che mi ha segnalato una nuova uscita di Conan il Barbaro. Nuovi disegni, nuove storie, ancora non sono riuscito a munirmene, Buck, ma spero che presto ne parleremo. Al momento ho raccattato moltissime novità italiane e in Italia e quindi scusa, ma do precedenza a loro, anche se in Conan il Barbaro segnalo l'onnipresente Carnevale che disegna le copertine, quindi in un certo senso saremmo in Italia anche lì, però via, lascio un attimo le chitarre suonare. Sarebbero anche da vedere, non solo da ascoltare, perché rispetto ragazzi. Al momento però li abbandoniamo e partiamo con un pezzo, noi ci facciamo la pausetta e ritorniamo tra poco. Adesso vi passiamo Josh Woodward con Learn to Fly. Thank you. bentornati ragazzi. Sono qua con i TNT Forti che suonano qua a fianco a me. Questa è la nona puntata di Strip Trip e io mi sto divertendo un casino con loro due, che mi danno il tempo per parlare. Bellissimo. Allora, torniamo ai nostri discorsi noiosi con una musica divertente che ci accompagna. Parlavamo, vi ho detto che vi avrei parlato delle donne nel fumetto e di un po' di novità italiane. Bene, cominciamo con questa puntata e con una carrellata di personaggi donna, delle figure, la figura della donna nel fumetto come personaggio. Partiamo da lontano, come al solito, partiamo dagli Stati Uniti, USA, e come al solito si parla di supereroi. Per forza, d'altronde, il fumetto americano è in gran parte è fatto di supereroi. E anche i supereroi si innamorano, anche i supereroi hanno bisogno di una mano, e questa mano gli viene data appunto dai personaggi comprimari. E qualvolta sono donne, come Catwoman o Batgirl, che appunto è l'aiutante di Batman. Sempre super belle, super affascinanti, anche un po' tettone il più delle volte. Insomma, sempre delle donne bellissime. D'altronde come i supereroi, sempre alti, muscolosi, spalle larghe. E per forza di cosa le donne devono essere alla loro altezza. C'è addirittura una... io onestamente la trovo terribile, però è She-Hulk, cioè la femmina di Hulk, io non so come altro chiamarla. È un donnone super muscoloso con probabilmente le tette più grosse mai osservate su una supereroina, e comunque tutta verde, i capelli lei li ha pettinati e non è a petto nudo. Questa è l'unica differenza che ha con Hulk, perché per il resto è super forte, super potente. Gli americani ce l'hanno di fantasia, e quando si parla di supereroi ne inventano sempre uno. Ma non solo, non ci sono solo personaggi comprimari nei supereroi, come femmine, sempre parlo come donne. Ci sono anche delle protagoniste. E il caso più famoso, eclatante, è Catwoman, o anche Elektra. Qualcuno magari avrà visto il film di Elektra. È nato come personaggio comprimario da Daredevil, che è il supereroe quello cieco, anche da lui tratto un film, grazie a Frank Miller e Lynn Varley, da Daredevil nasce il fumetto di Elektra, così anche lei diventa protagonista del fumetto, e naturalmente anche lei bellissima e quant'altro, come ogni supereroe. Ma adesso spostiamoci in Italia. E ovviamente, parlando di fumetto italiano, tra i primi che vengono in mente si passa naturalmente per la casa editrice Bonelli, che dal 98 pubblica insieme ai soliti Martin Mister, Big Dog e ovviamente Tex, c'è tale Giulia, scritto con la J, è una criminologa che vive vicino a New York, e come personaggio, come figura, come corporatura, come viso, è ispirata a Audrey Hepburn. E non solo nel corpo, come dicevo, ma anche nella personalità. Non è la donna aggressiva, non è una She-Hulk, ecco. È carina, tranquilla, bastina, con i capelli corti, sempre ordinati. E lei lotta contro il crimine, insomma, fa la criminologa, e non solo si dedica a lottare contro il crimine, ma cerca anche di capire le pulsioni criminali, cosa c'è dietro un atto criminale, senza giustificarlo, però cerca di capirlo e tira fuori l'aspetto più psicologico. Io non l'ho mai letto, ma so di persone che ne vanno pazze, quindi deve essere di sicuro un fumetto di qualità, anche perché ormai è 15 anni che è in campo e quindi non può essere altrimenti. Torniamo all'estero, e chi vi viene in mente se pensate a un personaggio protagonista del fumetto? Vi do un indizio in più. Siamo a Buenos Aires, il disegnatore si chiama Quino. Nel 64 tale Quino inventa Mafalda, Chi non conosce Mafalda, penso nessuno. Tutti avranno almeno visto una maglietta, un diario, insomma un adesivo. Da qualche parte Mafalda è ovunque. È un po' come una... diciamo a livello quasi di popolarità dei Peanuts, di Charlie Brown. E ecco, Mafalda è una piccola ribelle di 6 anni e passa tutte le sue strisce a rivendicare l'indipendenza per le donne, perché rispetto a sua madre non vuole diventare come sua madre, insomma, moglie che ha lasciato il lavoro per stare dietro ai figli. E fa ridere, è molto, molto simpatico, molto carino, sicuro l'avete già vista. E trovo molto curioso, anzi, è piacevole vedere che una così piccola femminista sia disegnata e portata avanti da un disegnatore maschio, da un autore maschio, un uomo, insomma, è anche negli anni 60, quindi non l'altro ieri. E beh, questo è sicuramente apprezzato. Adesso facciamo un viaggio di un altro bel tot di chilometri e ritorniamo di nuovo in Italia, dove da altri 2 uomini, però questa volta appunto italiani, nascono altre fantastiche donne del fumetto. Partiamo da Crepax. Chi non conosce Crepax, che gli tiro la penna in un occhio. Crepax è l'autore di Valentina. Valentina è una sensualissima milanese, indipendente ma allo stesso tempo anche molto fragile, famosa per il suo caschetto nero, l'avete di sicuro visto su qualche blog, su internet, spesso si vede anche su riviste. E beh, come vi dicevo, è milanese, lei vive e sogna a Milano negli anni 60 e fumettisticamente parlando, editorialmente parlando, vive su fumetti tipo Linus. Era molto famosa, ha raggiunto l'apice con Linus. Da Crepax passiamo, se possibile, a un ancora neanche più bravo disegnatore, ma più sensuale, non perché sia lui sensuale, ma perché la sua matita disegna, ecco, personaggi molto molto sensuali. E vi parlo delle donne di Milo Manara. Milo Manara, celeberrimo, non sto a spiegarvi chi è, sempre disegnato, la sua carriera è basata sul disegno delle bellissime donne, sempre provocatrici, ogni tanto anche sottomesse, e in questo caso sono donne più disegnate per il piacere dell'occhio maschile. Sono spesso scoperte, anche un po' porcelle, diciamo, e questo fa molto piacere a noi maschietti. Ebbene, io chiudo qua con i personaggi, anche se non sono tutti. Ci sono i 2 chitarristi qua al mio fianco che non ce la fanno più, vedo le bolle sulle loro dita crescere. Vi lasciamo con un altro pezzo, lascio riposare i nostri chitarristi qui a fianco e torniamo e parleremo delle disegnatrici. Questa è Becula con Australian Spring. We'll be right back. bentornati su Radio Abawalla. Bene, c'è un po' di macello qua, non preoccupatevi, siamo sempre noi, non ci smentiamo mai, ogni tanto qualche papera ci scappa. Poi stasera in particolare la cosa si fa complessa perché qua a fianco a noi abbiamo i tienti forti che intonano questa serenata alle donne. In questa puntata speciale è tutta dedicata alle donne. Siamo su Radio Bawalla, come vi ho detto, e la Radio Creative Commons, e io sono Ale, vi parlo di fumetti con la nona puntata di Strip Trick. Come vi ho detto, parlavamo di donne, e bene, abbiamo parlato un po' dei personaggi del fumetto donne, e adesso parliamo anche un po' delle disegnatrici. Come un po' in tutte le arti, purtroppo non c'è tantissimo spazio per le donne, anche perché nel fumetto almeno il pubblico è prettamente maschile, e almeno lo era in gran parte fino a qualche anno fa. Mentre, nonostante tutto, ci sono in ogni caso grandi autrici, grandi nomi nel fumetto sia italiano che internazionale. E vi faccio per esempio il nome di Marianne Satrapi, che non so se avete visto il lungometraggio animato di Persepolis, comunque è tratto da un fumetto, appunto, dall'autrice Marianne Satrapi, iranico-francese, emigrata in Francia per fuggire al regime iraniano, e proprio di questo parlano le sue storie. Abbiamo prima citato Lynn Varley, che è collaboratrice e ex moglie di Frank Miller. Non so se avete letto 300, ma i colori di 300, da cui è stato tratto un film, sono fatti da Lynn Varley. Ecco, lei era almeno la colorista di Frank Miller. Ma viaggiamo di nuovo in Italia, torniamo in patria. Non sono tantissime le disegnatrici italiane di successo, ma tra le poche ce n'è alcune di grandissima qualità. Vi accenno qualcosa di Cinzia Ghigliano, ad esempio, non tanto nota oggi, non ai più giovani almeno, ma tra gli anni 70 e 80 ha un grande successo sia in Italia che all'estero. Pubblica sul Corriere dei Piccoli e su varie settimanali femminili, e nel 1984 crea Solange, un personaggio ovviamente femminile, molto noto soprattutto in Francia. Cinzia Ghigliano, oltre che mia insegnante quando ho imparato a disegnare, ha vinto molti premi e oggi illustra per i bambini, e molte delle sue tavole sono presenti in svariati musei in giro per il mondo, appunto per questa sua precessa grande attività in campo del fumetto. Cambiamo totalmente genere e ci rilanciamo su quello che viene molto bene in Italia, cioè il fumetto umoristico. E Silvia Ziche è una delle rappresentanti più in voga, almeno lo è stata sicuramente qualche anno fa. Inizia a lavorare con Topolino, molte storie su Topolino, lo stile con Topolino, sì, su Topolino, con Topolino, no, proprio sul settimanale Topolino. Grande disegnatrice, uno stile molto particolare e molto riconoscibile, infatti questo stile, questa bravura viene riconosciuta e comincia a pubblicare diversi libri, tra cui anche Inferno, un album molto bello che io ho apprezzato tantissimo, che tra l'altro è sceneggiato da Tito Faraci, sceneggiatore di Topolino ma anche scrittore di gialli, un altro grandissimo autore italiano di fumetti. Oltre a questo, famosa per varie raccolte di Lucrezia, suo personaggio anche qua donna, che sicuramente avete visto su Donna Moderna. Ecco, nelle prime pagine di Donna Moderna vedete quella vignetta a tutta pagina, ecco, quella è Silvia Ziche, e quel personaggio lì è Lucrezia, diciamo un po' il suo alter ego, ecco, autoironica, e gioca molto sulle crisi di identità, sulle paranoie delle donne, almeno a me fa spesso ridere. Quindi, un grande saluto a Cinzia, che ammiro e rispetto, e anche a Silvia, che porta avanti strenuamente l'attività. Queste sono solo alcune delle donne che posso citare come disegnatrici, ce ne sono molte altre, molto anche tanto giovani. Qua c'è un po' di corri-corri, non so ancora quale sarà il prossimo pezzo, ma lo stanno scrivendo, lo vedo. Stavo dicendo che le donne, almeno in Italia, sono molto più dirette verso l'illustrazione infantile, anche per adulti. C'è qualcosa che non va? Sì, va meglio. Problemi tecnici, come vi ho detto, siamo live, cioè abbiamo la musica live. Stasera siamo impegnatissimi, tutti uomini, e non possiamo che far casino, ci andrebbe una donna qua dentro. Bene, adesso lasciamo riposare i nostri chitarristi e diamo tregua alle loro bolle sui popastrelli. E vi lascio con Paradoxil, Fame and Honor. Tornati all'urlo di togliamola via sta schifezza. Torniamo con le chitarre. Mi piace lasciargli un po' di spazio, quindi mi zittisco. Loro sono i Tienti Forti, live su Radio Bawa. E siete sempre con Aria, e questa è sempre Strip Trip. Spaccano questi ragazzi, vi giuro, io ce li ho qua davanti che suonano, non è una roba registrata, hanno spartito, non hanno niente, solo le chitarre. Vabbè, uno c'ha il plettro, ma si vede che c'era più piccolo lui. Bene, vi ho accennato che avremmo parlato di un po' di novità di fumetto italiane. E bene, partiamo già questa puntata sempre parlando di donne, perché questa puntata è dedicata a loro, dedicata alle donne nel fumetto e del fumetto. E, una nuova uscita, nuova, fresca, nel senso che sarà in vendita solo dalla settimana a venire. E, ma grazie ai potentissimi mezzi di Strip Trip e di Radio Bagualla, io ho già Mater Morbi qua, sotto i miei occhi, davanti a me. E, Mater Morbi è una riedizione, edita da Bau Publishing, del numero 280 di Dylan Dog. Dylan Dog, saprete, è edito dalla Bonelli, di cui abbiamo già parlato prima. È una riedizione arricchita, molto ricca, c'è una intro a colori, sempre disegnata da Massimo Carnevale. Massimo Carnevale, di cui vi ho già parlato e riparlato, e ne riparliamo anche stavolta. E con contenuti speciali alla fine, interviste e scritti degli autori, le matite e soprattutto, cosa interessantissima, parte della sceneggiatura, con la possibilità di scaricare l'intera sceneggiatura dell'album, una cosa molto interessante se volete vedere cosa c'è dietro le quinte. Ecco, vi dicevo, Mater Morbi, disegnata da Massimo Carnevale e sceneggiata da Roberto Recchioni. Roberto Recchioni sull'onda del successo in questo momento, lo è già da qualche tempo, però adesso news fresca fresca, è diventato curatore dell'intera serie di Dylan Dog. È una notiziona, perché è una cosa a mio avviso molto, molto importante e molto bella per lui, infatti vi faccio i miei più grandi auguri. Riedizione, perché questa riedizione? Perché è stato un album molto importante, al di là del fatto che i due autori, i due nomi che accompagnano quest'album sono al top, ecco, per quanto riguarda il fumetto italiano e anche internazionale, e poi perché questo numero ha avuto un eco mediatico molto forte per i temi di cui tratta, e perché è particolare rispetto al solito Dylan Dog, c'è qualcosa di più. Partiamo dall'inizio, dal titolo, Mater Morbi, cioè madre delle malattie, della malattia, impersonata ovviamente da una donna, di cui si parla in un pezzo alla fine che adesso vi vado a leggere velocemente, ovviamente ho tagliato qualche pezzo. No, è una cosa molto... È un commento al fumetto degli autori stessi. Tra Recchioni e Carnevale sorge un diverso punto di vista. L'aspetto estetico del personaggio di Mater Morbi. Lo scrittore, cioè Recchioni, vuole un'immagine allegorica della malattia, sensualmente classica nella forma, con pochi elementi a indicare la sua natura mostruosa. Mentre il disegnatore, Massimo Carnevale, vuole dotarla di un volto e un fisico provato, la rappresentazione stessa della malattia, sofferente, senza capelli, è rivestita di guaina, borchie e tubicini, ma con una sensualità devastante. L'idea del disegnatore è quella di colpire il lettore intrigato dall'idea dell'immagine di Dylan che bacia un personaggio del genere. Alla fine a spuntarla è Recchioni, che ammette però a posteriori che... Alcuni lettori non hanno capito che Mater Morbi è rappresentata come una bella donna per delineare il fascino suadente della malattia, e l'hanno vista solo come la bonazza sadomaso di turno. Insomma, forse aveva ragione Massimo Carnevale. E quindi, ecco, come nella vita reale, purtroppo, anche nel fumetto a volte le donne vengono sottovalutate. Io invece sono rimasto molto... molto intrigato da Mater Morbi, da questa donna molto, molto sensuale, con i capelli lunghi, tutta nera, appunto un po' sadomaso. E non solo perché è bella e perché è particolarmente avvenente, ma proprio perché si abbina questa sua cattiveria, questa sua... non so neanche come spiegarvi, è una malattia, quindi è difficile da fermare, difficile da capire, difficile da trovare. E abbinato a questa bellezza è una cosa quasi disarmante, tanto più che alla fine viene fuori il lato più donna, nel senso la parte più umana di questo personaggio, in quanto prima sembra indissolubile, cattiva, terribile, e invece si rivela poi molto, molto, molto diversa, totalmente, direi, umana. E da qui proprio nasce l'eco mediatico di cui vi ho parlato prima, perché tutta la storia sviluppa temi forti e importanti come l'eutanasia, è difficile trovare argomenti così nei fumetti. Di solito si va sull'impegnato magari, ma più spesso è qualcosa di più legato alla politica magari, o più critica. Invece qua Recchioni si spinge un pochino più in là e mette proprio qualcosa di suo. E beh, io rispetto tanto questa cosa, perché anche per Dylan Dog è una cosa davvero nuova, un po' rivoluzionaria. Qua si spinge su qualcosa di più personale, di qualcosa che è di più dell'amore, dell'incontrare una ragazza, del salvarla dal mostro di turno, o di scoprire la verità, o di salvare una persona. È più un contatto con se stessi e con la propria malattia, ed è in questo che si confronta, su cui si confronta Dylan Dog, con la sua malattia, proprio l'affronta faccia a faccia, e l'affronta in un modo totalmente diverso dal solito. Adesso vi lascio con un altro pezzone, magari ci ascoltiamo ancora una solo dei 20 Forti, che non ce la fanno più, quindi ce lo faranno al ritorno da solo. Sono contentissimi, li vedo sorridere e annuire. Dai, vi lascio con Slide Cowboy, noi ci sentiamo dopo. Eccoci tornati, questa è Strip Trip su Radio Bawalla. Sono qua con i 20 Forti che strimpellano al mio fianco. È molto bello vederli, averli qua, perché quando non so cosa dire, quando mi impappo un po', posso fermarmi e dire: li lascio suonare. Adesso non mi sono impappato, ma li lascio suonare un po'. Serata tutta melodica, tutta dedicata alle donne. Già, perché è di queste che stiamo parlando stasera. Delle donne nel fumetto. È un argomento più che ampio, direi esteso. Ecco, estremamente vario, ricco di spunti, mille sfaccettature, cioè. C'è troppo da parlare. Io di sicuro non ho parlato di tutto, mi sono attenuto strettamente a quello che riguarda il fumetto e, diciamo, alle poche, però non troppo poche, cose che io conosco. Ma ovviamente, se volete, io vi ricordo che c'è la pagina Facebook, e se avete curiosità, se volete aggiungere qualcosa a quello che ho detto io, addirittura, anzi, meglio ancora, correggermi e far scoprire qualcosa a me, c'è la pagina Facebook, Strip Trip. Facebook, cercate, ci siamo solo noi. e siamo in crescita, arrivati a 69 fan, un numerone. Raggiunti i 100 offro da bere a qualcuno dei fan, ovviamente. E beh, questa puntata è nata dalla pagina Facebook, quindi sono contento di inaugurare questa nuova serie, diciamo, questo nuovo inizio di Strip Trip. Dallo spunto di Chiara, che qualcuno sa, qualcuno no, è pure la mia dolce metà. E quindi la ringrazio e dedico in un certo senso questa puntata anche un po' a lei. C'è tra l'altro anche Armando, che nello stesso post commenta e mi chiede da dove iniziare per cominciare a scoprire il fumetto, il mondo del fumetto. Allora, se fosse, diciamo, metodo scolastico, se dovessi insegnarti il fumetto, la storia del fumetto, ti direi di iniziare dai grandi classici, di comprarti un albo di Tintin, uno di Asterix e Obelix, di guardarti uno dei primi Tex e di comprarti uno Spider-Man degli anni 80. Ma a parte che questi sono solo 4 esempi su migliaia che potrei fare di grandi classici, un po' di ampio respiro, ecco, per prendere un po' tutte le zone geografiche, quello che almeno per me è importante nel fumetto. Ma il fumetto deve essere un piacere, un po' come la lettura o il cinema, ecco. Il mio consiglio a Armando e a chiunque voglia iniziare o voglia cominciare a leggere il fumetto è di non decidere entro nel fumetto o come cominciare il fumetto. Vai in fumetteria come se tu andassi in libreria, ti fai un giro, guardi se c'è qualcosa che ti ispira, che ti piace, che ti piacerebbe. Magari parti da un argomento che già ti interessa e da quello fai nascere tutto. Ecco, esattamente come fosse per un film o per un libro. Magari fatti consigliare da qualcuno, leggi qualcosa sul web, qualcosa su Strip Trip, magari sulla pagina, oppure ascolta questo stupendo programma. E oppure potresti fare, e qua vabbè, il mio ego torna e torno a parlare di Chiara, della mia ragazza, che quando l'ho conosciuta non aveva mai letto un fumetto, non era capace a leggere un fumetto perché mai l'aveva fatto da bambina, e quindi io non l'ho assolutamente forzata e l'ho solo dato una spintarella al momento, ecco, in cui ho visto nascere un po' in lei l'interesse per i Peanuts, cioè per Snoopy, Charlie Brown, cioè per Charles Schulz, uno dei grandi classici del fumetto, immortale e intramontabile. Ecco, da lì lei ha cominciato a leggere i fumetti, ha scoperto che gli piacciono, possono essere divertenti, non sono noiosi come quelli che leggo io, come dice lei. E da lì è nato tutto, non ho più dovuto dirgli niente. Una volta siamo andati a una presentazione di un libro di Alessandro Baronciani, disegnatore italiano, e lì autonomamente ha deciso di comprarsi lei un albo tutto per sé, nel senso che io ho comprato il mio e lei ha comprato il suo perché lo voleva, perché gli piaceva. E quello per me è stato, insomma, dentro di me ero sì, ho vinto. Poi da lì, ecco, quello è stato l'inizio, perché poi dopo, di nuovo per conto suo, ha deciso di comprarsi una graphic novel giornalistica, diciamo, in un certo senso, un fumetto su Olivetti. E questo per me è stato un'ulteriore vittoria, perché è molto molto difficile. Una graphic novel giornalistica di solito sono molto molto impegnate, non è una cosa, ecco, da tutti. E anche lì io non ho detto niente, è stata lei autonomamente a scegliere di comprarsi il fumetto, e per lei è stato come comprarsi un libro, come sviluppare un suo interesse. Quindi non vediamo solo il fumetto come io leggo fumetti, no, io leggo anche il fumetto perché mi piace quel fumetto, perché mi interessa quell'argomento. Insomma, non cerchiamo di trovare noi un ingresso nel mondo del fumetto. Il fumetto è aperto, è immenso e non ha ingressi. Lasciamo che sia invece il fumetto a trovare uno spazio per entrare, diciamo, dentro di noi, per scoprire qualcosa di noi. Perché poi alla fine di questo si parla di storie che ci fanno crescere, che ci colpiscono. Deve essere così che nasce una passione. non dobbiamo cercarla. Quindi lasciati guidare da qualcosa che ti piace. Parti anche da lontano, che ne so, c'è una serie TV, un film, o appunto abbiamo parlato di The Walking Dead. Ti piace The Walking Dead? Comprati un fumetto di The Walking Dead, sono 3 euro, forse poco più di 3 euro, poco meno. Li spendi e te lo leggi, vedi, se ti piace vai avanti. Se no, provi di nuovo. Magari prossimamente parleremo di Zero Calcare, che come sapete io sponsorizzo sempre perché ammiro molto. Quindi potresti provare a leggere quello, che è molto leggero, divertente, e cominciare a provare con l'italiano, che è più vicino a me. Io adesso vi lascio con un pezzo e ci risentiamo tra poco e chiacchiereremo un po' con Venti Forti. Questo è Robin Gray con This Day. A dopo. This morning I woke, restless and heady, with blood pulsing fierce in the vein. There's light on a line this morning and maybe forever. I move with regard for the signs. You know I've searched my heart to prove there's better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days. Somewhere to the east, the sun is stirring, starting to light up the sky. And I'm lying here reliving the last few days, 'cause I missed most of them the first time. You know I've searched my heart to prove there's better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days. Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth. I thought that we could, I thought that we would. I was mistaken. No, I've searched my heart to prove there's better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days. You know I've searched my heart to prove there's better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days. Eccoci tornati, siamo qua con i Tienti Forti, facciamo una breve intervista con loro. Sono un duo acustico, chitarra, e beh, lascio parlare loro. Sono Forti, chiediamo a Tienti, perché questo nome? Beh, fondamentalmente, quando abbiamo fondato il gruppo, ormai 10 anni fa, io avevo 20 anni e lui ne aveva 40, e quindi niente, da questo TNT 2040, e quindi all'inizio era 2040 che poi è diventato TNT 40. È fantastico, a me piace molto il gioco di parole. Io quando li ho sentito il nome, non quando ho sentito loro, però sono scoppiato a ridere perché mi è piaciuto davvero tanto. E so che avete in previsioni un concertino, un piccolo live, dove, quando? Sì, saremo l'apertura dei Good Old Boys a Santo Stefano il 31 di questo mese, e poi abbiamo delle altre date in vista, ma potete trovare tutto sul nostro sito se cercate TNT 40 su Google. Bene, quindi mi raccomando, segnatevelo, TNT 40. Per chi non lo sapesse, Santo Stefano è una località di Chiaverano, vicino a Ivrea, è molto rurale, molto pittoresca, tutto all'aperto, e beh, se fa caldo sarà una gran serata e di sicuro loro ci accompagneranno. Beh, io ci sarò. E ti ringraziamo e siamo stati molto contenti di aver accompagnato questa tua puntata. E quindi niente, saremo molto felici di farvi sentire un pezzo. Niente, mi sembra un po' Beavis, di Beavis and Butthead, non so se... Però vabbè, uno serio, molto composto, poi questi capelli lunghi, grosso con la barba. È un po' brutto, eh. Tra l'altro è quello che c'era piccolo, dei due. No, non è vero. No, lo so. Bene, ragazzi, siamo giunti alla fine. Ormai dopo l'intervista sono scasciato sulla sedia col microfono in mano e mi sto godendo l'ultima strimpellata dei TNT 40. Come vi ho detto, prossimamente parleremo di diverse novità nel fumetto, nuove edizioni, nuove cose, ecco, partendo ovviamente dal nuovo fumetto di Zero Calcare, che è uscito, che ho letto, che rileggerò prima di parlarvene e rileggerò anche dopo perché mi ha fatto ridere, e quindi lo rileggerò con piacere. Parleremo anche di Paco Roca, non so se lo conoscete, edito da Tunue, che comincia una nuova via editoriale un pochino più economica, con una collana che si chiama Le Ali, che vi consiglio. Con 8 euro vi portate via fumetto d'autore, e la qualità è sempre ottima, solo la dimensione che è un pochino più piccola, ma se si risparmia qualche euro, diciamo, in questo periodo schifo non fa. Bene, io saluto i TNT 40, saluto, spero, le tante donne che ci hanno ascoltato questa sera, e ci risentiamo la prossima puntata. Mi raccomando, stay tuned. Ciao belli. C'è l'Eternit sul tetto e le gronde fanno acqua. Pavimenti da rifare, TV alte. Calcinacci giù nei cessi. Condomini immigrati. Interruttori senza terra. Valvole bloccate nei termosifoni. Il citofono è rotto. Non si leggono i cognomi. Questi sono problemoni. Mi si sono rotti anche i rigati, i tetri, i vetri che alluminio. Te l'hai insvergolato il legno. Cos'è bene, cos'è male, lo vedremo all'assemblea condominiale. Ciao parti comuni, io parto domani. Io vi saluto, voi agitate le mani, ma mi aspetta un mare senza caimani. fiumi tranquilli, niente coccodrilli. E il cellulare senza squilli. Scarichi otturati, odore per le scale. Schiamazzi nel cortile, stillicidi dai balconi. Sono sempre problemoni. Aumento del riscaldamento, un'inflazione del lamento. Esposto sono esposto e c'è un esposto alla PS contro me. Evaderò, evaderò da questi millesimi a sbarre e lo farò. Ho una forbice per la corda, ho un cassetto che non scorda. C'ho il mio bel lascia passare, nessun saluto più da dover fare. E vi lascio tutti qui. Cortile, già non ci stiamo noi con le nostre macchine. Poi quello là, dove cazzo abita quello là? Viene a parcheggiare proprio qua sotto casa mia, davanti alla portiera. Ma io gli taglio le gomme. Ma che cazzo? Mamma vaffa, dove la metto io la macchina? Ah, ma io questa volta io non pago. Ma quando arriva la lata, io non la pago. Che penso, e basta, anche perché basta, dai. Io questa cosa non la. Ma qua, veramente, questa volta io non la pago. Anzi, gliela faccio pagare. Avete ascoltato Strip Trip, un viaggio nel mondo dei fumetti con Alessandro Chiarella, in onda ogni domenica alle 21:00.